Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Sera, buonasera dalla voce di Agostino Spolaone, buonasera dalla voce di Maurizio Calzavara. Buonasera, c'ero anche ieri in ogni Buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera Maurizio, ben ritrovato anche te in questa serata fredda di gennaio, il 26 gennaio 2012. Buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto. Questa è la vostra emittente in questo momento, diciamo, preferita, come piace dire il sottoscritto. Vi ricordo i nostri dati tecnici prima di presentare questo artista che ci viene a trovare da Verona, che si chiama Ferrais, ma ne parliamo tra qualche istante. Allora, i nostri dati tecnici, dicevo, il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda quello degli sms, vi ricordo, è il 346 23 20 033. Vi ricordo il nostro sito, siamo in streaming anche audio, quindi www.bluradioveneto.it, e poi vi ricordo le nostre pagine Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto una, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Penso di aver detto tutto. Questa è la fascia oraria che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 22.30 con Agostino il giovedì e con Maurizio ovviamente, ma Maurizio poi c'è tutte le sere, come diceva tu. Escluso il lunedì. Eppure il venerdì, ma venerdì è cioè manco borgato praticamente. Sei proprio uno staccanovista, insomma. Ma perché la radio è bella così? La radio, noi facciamo la radio perché ci piace fare la radio. Tutto. Certo, mi sembra giusto. Appunto. Allora, abbiamo con noi Ferrais. Ciao Ferrais, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per l'invito di Agostino. E in questa radio, ed eccomi qua, pronto ad essere intervistato. Massacrato. No. È un'inquisizione. Pronto ad essere il protagonista, non massacrato, Ferrais. Beh, assolutamente. I veri protagonisti della storia umana sono sempre stati massacrati. Questo è vero. Allora, benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie. Alessandro, ben ritrovato. Ci viene a presentare questo disco che si chiama Il Centro delle Distanze. Un disco che io ho trovato molto bello, d'accordo con me anche Maurizio. Grazie. E infatti per quello che sei qui, oltretutto. Abbiamo deciso noi. Sì, è un discorso interessante perché c'è una definizione che ti contraddistingue, che è questa. Sei un artista per il quale la definizione di cantautore nel senso più stretto del termine non risulta appropriato, e il concetto parte proprio da questo. Cosa ne dici? Sì, il concetto, se apparentemente può essere, diciamo, visto come da un lato quasi presuntuoso della cosa, nel senso che è come quasi io voglia uscire da questo, diciamo, luogo comune, da questo cliché. In realtà è proprio l'esplicitazione di quello che io sono a livello musicale soprattutto, e prima ancora a livello di persona. Cioè, la musica che faccio io ovviamente nasce da una chitarra, un piano, una voce, ovviamente, ma già dentro c'è un'ispirazione per quanto riguarda quello che banalmente si chiama arrangiamento, ma che per me non è tale l'arrangiamento. Per me è già, fa parte di una componente, un suono, è da voce una cosa. Quindi solitamente in Italia il cantautore è un po' visto come, non so, il De Gregori, il De André, anche se De André secondo me va oltre il cantautoriato classico, cioè al di là degli schemi, è fuori perché comunque anche tramite le collaborazioni che ho avuto con Fossati eccetera sono andati ben oltre, e la poesia che ovviamente rappresenta è riuscita a scardinare questa cosa, pur avendo delle tematiche sociali e umane esistenziali. Quindi non posso essere un cantautore fine a se stesso, proprio per questa motivazione, perché infatti ho tolto, io sarei il mio primo disco, diciamo, autoprodotto e poi pubblicato dalla casa editrice Ave8 di Brescia, si intitolava Tutto copre la marea, che è un pezzo poi che fa parte disco, di questo disco. E lì mi chiamato, diciamo, è uscito come Alessandro Ferrais. Lì l'idea mi è venuta, appunto, l'idea naturale di appunto eliminare proprio Alessandro Ferrais per fare in modo che questo Ferrais, come il titolo stesso, il centro di istanze, possano come dire confluire moltissime cose che poi fanno parte della mia dimensione spirituale e musicale. Quindi posso permettermi di fare dell'elettronica, di andare a sfiorare anche il cantautoriato, di andare a sfiorare qualsiasi cosa. Ho da ogni distanza, diciamo, parte, come dire, una potenza. Ecco, io credo che poi il centro di istanze appunto abbia anche questo tipo di risvolto, proprio per la versatilità delle canzoni che sono dentro il disco, fondamentalmente. Cioè, non ci deve essere una gabbia, praticamente. devi portare avanti un discorso totalmente allargato, senza paletti ulteriori. Che non è un progetto, peraltro, non è Ferrais è il progetto. No, Ferrais è un non luogo, un'atmosfera. Sì, ho capito. Ecco, un territorio. Benissimo. Forse hai spiegato chiaramente il perché di Ferrais, hai spiegato chiaramente dove va la tua direzione musicale. Questo secondo me. Poi ne parleremo, abbiamo tempo fino alle 10:30. E poi un'altra cosa interessante, poi Agostino partirà col primo pezzo. Una recensione c'è scritto: un musicista che non ha ritornelli. O meglio, i ritornelli ci sono, però non tradizionali. Questo è importante, secondo me. E quindi è già una ricerca anche su questo. Non è semplice non avere ritornelli, perché come tutti sappiamo, il cantautorato fine a se stesso ha i ritornelli come essenza. Sì, questa è una cosa che poi mi è stata detta, ovviamente, quindi per me è positivo, secondo me. Certo, nel senso che io faccio le cose in maniera, tra virgolette, naturale. Ovvio che dopo questo mio modo di questa mia grafia, diciamo, musicale, poi viene ovviamente ascoltata, e questo mi ha fatto molto piacere, il fatto che non fossi, diciamo, ingabbiato, come hai detto tu, ingabbiato in una certa maniera, la solita questione di come ti insegnano a costruire una canzone, che è la cosa più brutta che esista, come costruire una canzone. Se pensiamo a come gruppo, come dicevo prima, non in diretta, una canzone come A Forest The Cure è soltanto quasi un loop in cui si muove una voce. Si muove lui e degli altri. Lui e gli altri. Ecco, questa canzone è diventata un inno ed è stata venduta in tutto il mondo. Quindi quelli che mi vengono a raccontare che la musica deve avere l'inciso, la metrica, i ritornelli, possono avere, se il cantautore ha quello stile, bene. Io fatalità non lo ho, anche perché in realtà poi non sono proprio non ritornelli, ci sono delle cose che ritornano, ecco, ritornelli fondamentalmente, in questo senso, ecco, in questo ritornano senso. Però per sempre con sfumature diverse, anche una parola, una frase, il dettaglio è molto importante, ma non costruito, certo, che nasce sempre da una fonte di ispirazione. Beh, ascoltiamo questo mondo. Lui ha spiegato totalmente tutto quanto, come ci si avvicina alla sua musica. Quindi ci siamo curiositi, quindi adesso ci ascoltiamo il mondo di Ferrais e ci ascoltiamo la canzone che apre il disco. Questo il centro delle distanze, la canzone si intitola Il pezzo mancante, è traccia numero uno per questo disco e buon ascolto. Grazie. Del tempo, io sto le scuole. Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'apertura particolarissima. O sbaglio? Beh, particolare sicuramente. C'è un motivo perché hai scelto proprio questa canzone come traccia d'apertura? Ma forse perché è proprio il pezzo mancante, nel senso che forse un po', diciamo, è un brano che fa proprio sentire qualche vibrazione sonora, almeno nel suono o nella gestione di una lirica che apparentemente è ermetica. E però qua sembra semplice, sembra un testo che vaga nell'etere, nell'eterea come canzone, però anche ossessiva allo stesso tempo, e quindi è molto rappresentativa di quello che è poi il centro di stanze. È una parte del centro di stanze, certo si avvicina molto al fattore proprio di poetica nata e che vive in simbiosi tra musica e testo. Per me testo e musica sono, e voce sono la stessa identica cosa. Nessuno avremmo potuto alzare la voce. Io ho detto no, non alziamo la voce, teniamola così, teniamo l'atmosfera a scapito della anche comprensione del testo, che se io te la faccio acustica ovviamente senti che è un po' particolare. Molti dicono che sono un po' ermetico. Eremon Lyrics, dove è un portale dove ci sono praticamente caricati di più i brani di tutto il mondo, sono stato per vari mesi primo o secondo, terzo, assieme a vari cantanti, e quindi questo ermetismo poi insomma paga nel senso positivo, trasmette in realtà, trasmette. Perché in realtà sono tutte, io cerco di illustrare, di visualizzare un contesto, non parto mai da una cosa fondamentalmente che mi accade. E abbiamo stilato due chiavi di lettura di questo pezzo noi nella redazione quando abbiamo fatto la recensione, due chiavi di lettura che vanno dall'ossessivo, pezzo ossessivo di sottofondo, ma ossessivo che ti entra dentro, ti scava. Noi abbiamo parlato dei Cessi di Ferretti, perché i Cessi di Ferretti avevano questa caratteristica, un pezzo, anche questa chitarra un po' distorta, era l'ossessione. E il Garbo, perché il Garbo? Perché è un pezzo scuro, un pezzo dark, secondo me. Chiaramente sono dei piccoli riferimenti, dopo il pezzo è di Ferraris e basta, però i riferimenti ci vogliono per dare una chiave di lettura del pezzo, secondo me. Vabbè, e poi citando questi riferimenti, che peraltro sono dei riferimenti che mi sono arrivati da te in maniera veramente sorprendente, in quanto hai proprio centrato la questione. Questo è un pezzo che comunque nasce da una situazione emotiva, tra virgolette, cupa. Ma questa canzone è allo stesso tempo diventa celebrativa di quello che è la cupezza, o comunque quelle che sono le parti più le penombre, diciamo, i giochi di luce, di ombre, quindi può essere anche statica allo stesso tempo. E purtroppo quando per esempio viene postato una canzone dei Joy Division e magari in una radio dicono questo è post punk, questo è dark, io, a me viene diciamo, mi viene da ridere, perché per esempio per i Joy Division una canzone come Disorder, che tra virgolette sembra più divertente, è molto più assassina di una canzone come Control, che magari apparentemente ti sembra più, diciamo, cupa, ma in realtà ti fa entrare in un viaggio, ecco. Spesso non si capisce perché bisogna non entrare in determinati viaggi senza dover definire quella cosa lì. Cari ascoltatori, abbiamo sentito che variazioni, che frequentazioni ha avuto Ferraris, amici Joy Division, e citeremo altri personaggi, altri momenti musicali, altre sfaccettature, altre ricerche tue, poco da fare. Sì, le sfaccettature sono tante, adesso non voglio appunto magari già annunciarle, nel senso, non perché mi tengo l'effetto sorpresa, non c'è nessun effetto sorpresa, in quanto è solo la realtà, nel senso che attraverso queste canzoni alla fine descrivo una realtà o la molteplicità della realtà. È prismatica, insomma, ecco la questione. Benissimo, okay. Facciamo un'altra canzone da disco. Sì, facciamo un'altra canzone e poi suona. Poi suona. Lo sentiamo da assolutamente via. Suona. Allora, come seconda canzone abbiamo scelto quella che dà il titolo al disco, cioè Il centro delle distanze, la title track. C'è Rice. Cosa ci racconti di questa canzone? L'ascoltiamo e poi la parliamo dopo. Sì, dai, facciamo sentiamo, okay. L'ascoltiamo. Radio Sera. Questo è un pezzo interessante, importante, ma poi lo spiegherai bene. Io nella recensione abbiamo scritto: è un accattivante dondolio di melodia. La melodia c'è, sembra tirata, malata, la tiri da una parte, poi la però c'è, esiste, però una melodia che è la base, poi si costruisce un discorso musicale ampio, con un sacco di riferimenti, con un sacco di motivi. Giustamente a microfono spento tu parlavi che può essere anche un pezzo, può essere un soundtrack, cioè può essere un pezzo da film, una colonna sonora. La tua voce è importante, però se non c'era la tua voce poteva andare lo stesso il pezzo, vero? Questa canzone ha un'accezione evidentemente credo orchestrale, cioè nel senso può essere, io l'ho ascoltata anche senza voce, quindi ha proprio una personalità da colonna sonora, diciamo. Esatto, è vero. E però annuisce Agostino, sì, piano molto sono. Le colonne sonore è l'unica, quando annuisce lui, che poche volte lo fa, mi dà un po' di un po' di slinfa vitale per non cadere per terra. Non perché sia, perché provengo da 8 ore di dentisti, eccetera. Va bene, lasciamo stare. Un altro par di quello, sono particolari che rientrano pure. E no, il centro di stanza è comunque, oltre che essere una canzone orchestrale, ricordo che comunque la voce, anche essa, come vedi, è messa solo in determinati, sì, momenti, esatto, ovviamente in maniera naturale, vero, sempre, sì. Cioè non è una cosa costruita, volevo sempre specificare. E questa canzone ha avuto molto effetto, diciamo, appena uscita anche fuori dall'Italia. E perché in America ha avuto tanto effetto secondo te? Io ti dico, ho mandato questa canzone a questo, tanto che io sono iscritto a Reverb Nation, questa canzone a questo network, diciamo, c'è, cioè una radio FM che ha 100 web radio che gestisce, e mi sono trovato la risposta: ti mettiamo il pezzo immediato, dopo poco tempo. 10 giorni, sì. Conta che gli sono arrivati 17.000 invii in quei 10 giorni, quindi ha fatto una bella scelta. La cosa strana apparentemente poi è che il testo è in italiano, quindi tutte le canzoni che erano caricate, che inglesi, spagnole, di artisti australiani, di giapponesi, sono tutte in inglese, certo. Anche perché comunque potevano anche essere spagnoli, ma già lo spagnolo o il francese è già più musicalmente all'estero, già un po' più, cioè abbiamo già sentito cose. Possiamo fare una comparazione, non so se sei d'accordo, il Lacuna Coil, ecco, possiamo dire questo? Sì, vai a trovare sempre lontano, riesci a trovare delle cose, infatti avevo, parlando anche così un po' limitatamente ovviamente, però come impatto, sì, come alla, impatto. Alla radio americana o al pubblico americano è un impatto alla Evanescence, sì, alla Lacuna Coil, in quel senso lì. Ovvio che dopo è tutta un'altra storia, perché nel mezzo, se avete un po' ascoltato, la canzone diventa di una razionalità con quel tocchi di piano che invece proprio mettono la virgola sul fatto che ok, questo è una botta, ma a un certo punto c'è una reclusione. E questo perché? Perché il centro di stanze parla della possibilità, ovviamente, e la necessità di far fluire in un unico luogo delle far convergere in un unico luogo varie distanze o cose che apparentemente noi definiamo distanti, e creare un luogo da cui le stesse cose vengano quasi triturate, energeticamente riviste e irradiano ancora la realtà. Questa canzone, lo annuncio qui, sarà la canzone che avrà il video, perché c'è nato più facile fare un video su questa che sul pezzo mancante, ma una facilità, ma non diciamo per il contenuto apparentemente, cioè se vogliamo parlare del testo, ogni tanto diciamo può essere letto in varie maniere. E se parla, insomma, il testo parla di un suicidio fondamentalmente, o comunque di un continuo pensiero suicida, e ampliando la visuale di questa cosa, dato che io credo che ogni forma di sentimento negativo cosa debba, come dire, diventarti amico se no tu sarai sempre frustrato da queste cose, se tu avrai come una sorta di repulsione verso le cose, a un certo punto ti arriveranno, ti ritornano indietro. A livello più allargato è il suicidio che abbiamo nella nostra quotidianità. Semplicemente quando ci alziamo facciamo ogni cosa in maniera automatica, negli automatismi, quindi questi automatismi cosa fanno? Niente, ti precludono una visuale molto più ampia, ossia quello che poi è il vedere la meraviglia, lo stupore delle cose. Non è importante che cosa fai, se fai musica, se sei un operaio o se sei qualsiasi cosa. E la stessa cosa può essere vissuta in 300 maniere diverse. La stessa azione, lo stesso modo di andare a lavorare, la stessa sensazione. C'è chi, per esempio, mi viene da ridere perché io dico ogni tanto, c'è chi prende tantissimi aerei, fa tanti viaggi in aereo e trova altrettante gabbie, cioè non importa che luoghi vedrai, che cosa farai, ma è come nel tuo intimo senti e sei connesso e direi che ogni cosa, ogni centimetro che per sfiorare la mania, ogni centimetro, ogni piccola sfumatura, ogni piccolo passo è fondamentale viverlo totalmente. Tu in quel momento devi vivere col passo in totalità, se no sei destinato comunque, se no a suicidarti a livello proprio fisico, a suicidarti a livello inaridirti, ecco, fondamentalmente. Come, vabbè, no, volevo farti un'altra domanda, che a me piace molto l'aspetto umano dell'artista che viene qui, invece Maurizio poi è più sul tecnico, come vedi abbiamo fatto questa linea. Come nascono le tue canzoni, Ferais? Brava, tu fai le domande poi più difficili. Allora, e poi ti faccio suonare, comunque, promesso. O vuoi suonare prima e poi rispondi? No, poi rispondo, anche perché insomma posso anche non suonare. No, suonare devi. No, devi. È un obbligo. No, a parte gli scherzi, la nascita di una canzone è occulta come la nascita di un fiore, nel senso ci sono delle potenze che non puoi spiegare. Io non. Ecco, anche un aspetto che mi distingue dal cantautorato classico, comunque quello che adesso va anche un po' tra virgolette di moda, quello sociale, diciamo, di questi anni zero, la generazione X e tutte queste cose. Io credo che questa sarà l'era della poesia. E i Joy Division dicevano giustamente di Ice Age, ed era giusto quello che dicevano. Ice Age è ancora, tuttora, è così va definito qualcosa, cioè con una propulsione verso l'eterno, se no puntare il riflettore solo sull'immondizia della realtà, e dopo che l'hai puntato una volta, due volte, tre volte, hai fatto un disco di questo tipo, secondo tipo e terzo tipo, sempre su quelle tematiche, a un certo punto diventa anch'esso un luogo comune. Io tento di trovare attraverso, diciamo, questa oscurità degli squarci vitali in senso poetico, che quindi la poesia in questo senso racchiude tutti gli aspetti, dall'estasi alla morte, costringe l'uomo al muro. E quando un uomo è costretto, tocca il fondo del pozzo, come dice De André, ci può essere veramente una rinascita. E io dico che la potenza è il miracolo della fragilità, perché solo da essa possono venire determinate cose. Infatti una canzone poi che eseguirò dopo guarderà sotto un altro punto di vista questa cosa, invece delle persone molto sicure, che anch'esse fanno parte e mi sono molto simpatiche, simpatiche i mediocri, mi sono molto simpatici, invece solitamente sono antipatici. E quindi come nasce la mia canzone? Nasce in bagno spesso, perché è la cosa più naturale, e a parte è la verità, poi non è che lo dico in bagno, perché fondamentalmente col tempo che ho ovviamente, e poi non nasce da ciò che vedo, cioè non nasce da una esperienza personale, certo. Nasce da tutto quello che è l'assenza, che in realtà è un realtà. Sogno quasi, insomma. Ma non è un'illusione, nel senso che quello che noi definiamo illusorio, sì, la creatività sicuramente è fantasia, ma quello che noi spesso definiamo realtà è totalmente illusoria. Quello che noi non vogliamo assolutamente definire realtà, cioè la bellezza di un incontro tra un amico, insomma, quando praticamente, in poche parole, quando ti incontri con un amico, a parte parlare delle solite cose che sappiamo benissimo di cosa, parli di te stesso, parli di della tua anima, fondamentalmente è quello che interessa a una persona, è di esprimere la propria situazione e come dire, farla, come dire, e trovare degli specchi. Ecco, in quel senso sarà l'era della poesia, nel senso dell'era della reciprocità, cioè ognuno avrà il proprio assolo, ma sarà un assolo collettivo, lo chiamo io. Certo. Ognuno avrà la propria rarità, ma non potrà prescindere da un viaggio, non potrà essere un viaggio individualistico assolutamente. Con ciò non voglio dire che non c'entra niente la religione, cose del genere, c'entra il fatto che siamo al muro, ma da questo può nascere veramente la grandezza. Adesso ci ascoltiamo qualcosa che ci fai da vivo. Allora, cosa ci fai ascoltare con la tua chitarra che casualmente ti sei portato? Sì, vediamo se va intanto perché in diretta. Va bene così? Ok, va bene. Cosa ci fai ascoltare? Allora, questa canzone, così vedete un po' come nascono le mie canzoni, nel senso, io sono comunque prevalentemente un chitarrista che però pensa come un pianista, nel senso che spesso i pianisti che ho con cui ho suonato dicono sembrano canzoni fatte per il pianoforte, sì, però sono canzoni fatte con la chitarra. E questa canzone si intitola L'Eclisse. L'Eclisse, io ho notato anche questo in centro di distanza, cosa che noto dopo, il fattore della natura, di un qualcosa che ti mette, appunto, come dicevo, al muro, come l'eclisse, che potrebbe essere vista sotto un aspetto cupo. In realtà, dopo, quando avviene il fattore tremendo che in pratica ti senti escluso dalla tua stessa esistenza, dalla tua stessa vita, da ciò che provi, quando praticamente nulla più ti appartiene, neanche a te stesso, arriverà questa eclisse che tutto, come dire, oscurerà, e questa, diciamo, patina, diciamo, di ombre fa in modo che il tuo viso si sciolga, quindi tu, la tua identità, tutte le tue paranoie mentali, ti dà la possibilità di risorgere in un certo senso. E cos'è questa risurrezione? Anche nel ridere l'anima parla del suo vivere, come il finale sarà, anche se non mi piace spiegare le canzoni, è una, comunque nasce da questa, c'è sempre una forza della natura spesso, o comunque questa è l'eclisse. Perché è un viaggio, quindi non mi piace fermarmi a metà del viaggio. A volte lo sai che ridere diventa la cosa più difficile. A volte si sa che condividere è forse una meta impossibile. Quando non c'è più niente che, nulla per cui sei partecipe. A volte tu puoi anche spingerti verso un confine indecifrabile. A volte si sa che anche un limite nasconde l'ingresso del possibile. Quando non c'è più niente che nulla per cui sei partecipe, verrà l'eclisse che il tempo confonderà, quell'eclisse che è sorgente di novità, quell'eclisse che il tuo viso si scioglierà, per l'eclisse che la morte ci parlerà, dell'eclisse che la noia si placherà, nell'eclisse che nel ridere l'anima ci parla del suo vivere. Grazie. Dal vivo, Ferrari. Dal vivo, un pezzo molto difficile questo qua, secondo me. Ha tante chiavi di lettura, ha tanti momenti, ha tante variazioni, sempre nell'ambito del pezzo stesso. È così? Sì, questo evidente anche a livello acustico. Dopo, se già penso, diciamo, al suo fiorire, diciamo, a livello di da seme a pianta, già mi immagino come potrebbe essere, e ancora più stabilire un contatto con se stesso. Devo dire che comunque in acustico è già molto, come dire, completa. Sì, ma è un acustico non dico tradizionale, perché hai variato durante il pezzo, ti sei fermato, hai cambiato impostazione, poi hai ripreso l'impostazione, poi hai accelerato verso la fine e poi ti sei calmato, perché il cerchio si chiude praticamente. Sì, non è un'impostazione, diciamo, di una canzone classica, anche proprio. Ed è questa anche la difficoltà, tra virgolette, di esprimerla con una band. Esatto. Cioè, dato che io sono abituato all'improvvisazione, che non vuol dire fare le cose a caso o secondo l'emozione e basta, ma proprio secondo una trasmissione in quel momento che senti, qualcosa che ti proviene da qualche parte, e che quindi costringe questa canzone a un certo punto a far venire fuori l'eclisse. E non può l'eclisse venire fuori se non attraverso un cambio totale di nota, un cambio totale di atmosfera, è vero, per poi ritornare e accelerare, perché deve accelerare questa situazione da che è, come dire, da paralizzata, come può essere un'eclisse. Sì. Per poi in questa eclisse, come dire, c'è una, ma poi la luce ritorna, la ritorna, e la luce ritorna in questo caso in un aspetto molto semplice apparentemente, che è il ridere, che all'inizio dico, a volte lo sai che ridere è forse la smorfia o comunque la cosa più difficile, e alla fine, appunto, dopo questa oscurità che però ti ha nutrito, forse attraverso il ridere a volte l'anima ci racconta a noi, la nostra anima, il nostro vivere. Certamente, poi interessante che il momento dello sfogo musicale, della velocità, che la Chiara, che è ritornata, la nostra fotografa, ti ha proprio preso in un momento giusto. Di questo salutiamo la Chiara che sta facendo le fotografie. Ciao, Chiara. E ti ha preso proprio in quel momento di velocità, di non dico di trasgressione, di dare potenza al pezzo. Potenza, poi, sì, potenza al pezzo, che poi una potenza un po' sonora, epilettica quasi, sì, in un certo senso, sì, fuori della normalità, via acceleravi sempre di più, sempre, sì, di quasi farlo diventare un flamingo, tra virgolette, in certo senso. Non l'ho accelerata fino alla fine, di solito lo accelererò ancora anche di più. Sì. Perfetto, va bene. Allora, sono le 21.44, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara sta cercando di regalarvi questo artista veronese, cioè Ferrise, che si sta presentando al suo disco, che tra l'altro deve ancora uscire, se non sbaglio, vero? Ce l'abbiamo in anteprima. Diciamo fisicamente. Deve ancora uscire, sì. Si chiama Il Centro delle Distanze. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms, vi ricordo, è il 346-23-20-033. Alessandro, io ti devo portare dei saluti da Crotone. Cioè, una tua collega, che speriamo veramente di avere qui in studio fra un po', insomma, non diciamo quando sarà, si chiama, chiedo scusa un po' di deglutizione, diciamo, si chiama Floriana Mungari, ci sta ascoltando. Oh, la ciao. Salutiamo caramente, ciao. Le mando un grosso bacio, un abbraccio, ma così pure assieme a lei passiamo dalla Calabria alla Toscana. Ah. E salutiamo la Sandra e Enrico, che sono, ciao, nell'ambito della musica, insomma, una è una scrittrice, l'altro invece è un compositore. Allora, sono comunque in ascolto di Blu Radio Veneto, li aspettiamo, ciao, comunque qui. Tu hai parlato della decisione di abbandonare, non di abbandonare, di allontanarti dalla band, perché giustamente un pezzo simile è difficile che la band riesca a seguirti, è un po' complicato, perché vai a delle notevoli variazioni, come abbiamo sentito qualche secondo fa. E questa è in fase prettamente acustica. Già in fase acustica, crei in un pezzo semplice, crei poi degli sviluppi un po' complicati perché uno ti possa seguire in quel momento specifico. Questo voglio dire. Sì, poi la definizione di ciò che è semplice e complicato. Certo, come giustamente comunque ho recepito quello che vuoi dire. È molto, cioè, molto difficile, molto da dire, sì, da quantificare. Ovviamente, se andiamo a parlare di un tecnicismo prog, ovviamente non sarei in grado di tra virgolette di avere quel tipo. Ma di... Ma poteva essere un tecnicismo prog il finale, cioè, che tu hai fatto. Cioè, sì, cioè, c'è un in sé una cosa, sì. Non è che non sono in grado, però se proprio vogliamo parlare nel senso più brutto quasi della cosa, insomma, ci vogliono dei musicisti che ovviamente non seguono la base, diciamo, ma seguono proprio la storia, la storia, però che non è nel linguaggio normale, ma nel linguaggio visivo, di visione, di intuizione, di visibilità. E quindi è chiaro che se ci saranno, stiamo studiando anche il modo per farlo, bene, se no ci sarò io. Certo, indubbiamente. Allora, Ferrise, c'è una canzone che mi piace particolarmente in questo disco, che tra l'altro è quella che trovate anche su YouTube, insomma, così facciamo anche un po' di pubblicità. Grazie. A questa canzone. Io direi, se tu sei d'accordo, di farla ascoltare, perché è molto bella, è molto particolare, molto carina. Maurizio, sto parlando della canzone che si titola Tutto copre la marea. Sì, perfetto. Che è quella, insomma, che diciamo è forse la canzone portante del disco, o no? È sbagliato dire così. È un potenziale singolo, forse, no? Potrebbe, no? Certo, sì. ogni canzone potrebbe essere un potenziale singolo. No, nel senso, è molto importante questa canzone. È molto bella. Poi ci racconterai perché è importante, insomma. Va bene. Allora, Ferrise da Il Centro delle Distanze, ci ascoltiamo la canzone che si chiama Tutto copre la marea. sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Doveva esserci anche questa marea proprio alla fine, questo rumore del mar, dell'onda. Sì, una marea un po' tra virgolette elettronica. non è proprio frutto di un rumore originale, diciamo. No, sì, ma mi piace più così, nel senso che no, nel senso che non deve essere la classica, insomma, non è un suono di onda e basta, ma è una, insomma, una accoglimento, diciamo, un'accoglienza al tutto. Hai un po' di amici che stanno scrivendo nel tuo fans club. Sì. E dice, c'è uno che dice: suona che spacca, ed è Guido. Lo conosco. Riccardo, che saluto caramente, che doveva essere presente, dice: è vero, alla grande, suona. Come suona il pezzo mancante, prima dice un aggettivo, ma lo lasciamo stare. Sempre Guido. Sempre... Poi c'è Acreastro Enna nell'oro. Sì, si dice così? Non lo so, però è molto labirintico come persona, quindi potrebbe essere. Ecco. Lo saluto di cuore, è un gran scrittore, peraltro. Da cui faremo qualcosa insieme, peraltro, ma non diciamo niente. Stanno peraltro scrivendo tutto sulla tua pagina di Facebook, sul tuo fans club. Grazie. Ho visto che c'hai un sacco di seguito. Sì, qualcosa, insomma, poi un sacco. Bisogna vedere poi chi va. C'è un foglio con un sacco, veramente un sacco. Un sacchetto di gente da citare propriamente. Se lo facciamo a questo punto, lo facciamo adesso. Sì. Così dopo abbiamo tempo personale. Sì, niente, volevo appunto salutare subito Giulia ed Enrico, che sono mio figlio. Bene, certo. E Giulia, la mia compagna, e India, che è il mio cane, il cane di tutti. Poi Guido De Gaetano, che è il mio manager, che ha fatto tutto lui, nel senso, mi ha trasportato in questo viaggio. E l'etichetta, per modo di dire, l'etichetta, la casa discografica, si chiama Can Can Music Publishing, che è scritto Publishing, di Bologna. E saluto Riccardo, ovviamente Davino, che gestisce il mio fans club, come io gestisco il suo fans club. Saluto in particolar modo una persona speciale all'estero, che vive in Italia ma che è americana, che ha scritto appunto quell'articolo Spotlight su di me, perché si è innamorata subito di un paio di mie canzoni, poi è andata ad ascoltarle tutte. E questa è la scrittrice, autrice per Sony, per BMG, per Interscope, insomma nelle major, quindi qualcosa, insomma, ha visto, ed è Regina Swan, con tutto il suo, diciamo, network, che è Regina Swan International. Quindi lei adesso è per me stata una grande promotrice, e anche questo evento qua è stato promosso nel suo network a 5.000 passa membri all'estero, e quindi che poi per me è il mio, diciamo, la mia destinazione. Posso prevederla un po' fuori anche dall'Italia, si spera, e non perché non sia esterofilo, comunque proprio perché le mie sonorità, insomma, danno questo presagio. Poi voglio salutare un altro artista, radio, che mi ha ospitato, Salva Alvarez de Spagna. Grandissimo Salva Alvarez, mi ha messo la migliore espressione, si sentiva benissimo, grazie mille. Voglio salutare Radio Caffè, che è la radio americana che ha passato il centro delle distanze ed è rimasta un mese in classifica, tra le prime posizioni, fino ad arrivare a quinta, l'unica canzone italiana. Voglio salutare Michele Maraglino, che oltre che essere un artista è anche adesso ha formato un'etichetta, La Fame Dischi, è stato uno dei primi ancora un paio di anni fa a farmi le prime recensioni, a credere nelle mie cose, e tuttora siamo tremendamente amici e ci condividiamo le cose. Voglio salutare Caravaggia Frida, che sta anche lei, diciamo, è una cosa in cui passerò, insomma, mi farà un'intervista, sarà sempre nell'ambito radiofonico o dei blog, eccetera. Samantha, lei, che è una grandissima pittrice, e potrei continuare. E ecco, saluto anche Epic Fantasy, Francesco, che è Merchiori, che è, diciamo, attualmente quello che segue il mio booking per il Veneto, ma stiamo prevedendo di fare anche altre cose. E potrei citarne altri, ma scusatemi, cioè, se no fra un po' finisce la trasmissione. Abbiamo già passato un'ora, sai. Sì, ecco, per chiudere, per parlare un secondo di Tutto copre la marea. Tutto copre la marea, al di fuori del testo, e tutto fondamentalmente è sempre, diciamo, l'espressione di una forza naturale comunque che coprirà la voracità delle nostre futili domande, continue domande, continue risposte, necessità di risposte, eccetera eccetera. Potrei continuare a dargli mille significati. Comunque volevo soltanto dire che Tutto copre la marea, per fare un attimo di, no, promozione, ma perché è stata scelta per una compilation nazionale che uscirà a maggio e sarà seguita una showcase a Milano, nel Multicenter di Milano. La compilation, adesso non dico il nome, ma si chiamerà Opera Prima Compilation e sarà distribuita da Edel e nei punti Feltrinelli, Mondadori e vari negozi. Insomma, anche quella è una soddisfazione, perché Tutto copre la marea sembra una canzone molto bella, canzone. È una canzone tra virgolette pop ma onirica allo stesso tempo. Molto, credo che dal vivo quella canzone poi è al teatro. Infatti, che mi è capitato di fare, ho proposto il mio codice Tutto copre la marea, il mio codice ha dato un imprinting, proprio una bella, diciamo, apertura. E Tutto copre la marea dal vivo in acustico in un teatro di 400 persone ha ricevuto, diciamo, 4 applausi tra l'inizio e la fine. Quindi insomma, forse acustica ancora rende ancora di più, perché poi ci metto i miei dettagli prog. E comunque riesci a far piangere con quella canzone, Guido. Sì, perché me l'ha scritto. Speriamo che dal pianto anche. Forse la cosa più bella pure che ci sia è la luce del pianto. Quindi, certo. Senti, adesso vogliamo ascoltarti, però ci facciamo. Sì, perché veramente. Se no, due pezzi, non uno dietro l'altro, ma due pezzi in ogni caso. Cosa ci proponi? Allora, dato che ho detto il mio codice e fa parte del centro delle istanze, facciamo il mio codice. Il mio codice è l'affermazione totale di se stessi, della propria rarità, scontrandosi continuamente con tutto quello che è invece la maldicenza, tra virgolette. E non è assolutamente individualismo, anzi è un solo collettivo, c'è una creazione di, attraverso la propria rarità, di svegliarsi e di unirsi reciprocamente, di scambiarsi energia. Questo è il mio codice. Dovrei stare attento in ogni momento al senso che dai tu, e non c'è proprio nient'altro da fare se non aspettare l'allarme che dai tu. Dimmi cose che non so, qualcosa di naturale come ossigeno. Ho fatto come hai detto tu, avrei cercato il meglio, ma il meglio non c'è più. In estate sceglierò un sole complice che ci riscaldi per un po'. E chi è come me, così distante da ogni tua definizione, che è solo una prigione per me. foglia che avanza, ma senza pazienza afferrano anche te. E qui, qui non si respira abbastanza, per l'ultima volta respira almeno te. Ad un tratto accenderai un fuoco trasparente senza ossigeno. La mia mente svenirà sul tuo imperativo che ci circonda già. Ma questa volta sceglierò il mio codice che ci riporti per un po' verso chi è come me, senza una fissa identità. È incredibile svegliarsi in mezzo chi è come me. Grintoso questo. Grazie. Pezzo brioso. Brioso. Cantato quasi ad occhi chiusi da parte tua, eh? Ti vedevo. Sì, cantato anche perché può avere varie possibilità di interpretazione. E nel senso, può essere molto, come dici tu, grintoso, molto invece più onirico. Ho deciso per la grinta in questo momento, per dire il mio codice. Questo è il mio codice. Cioè, io c'ho un messaggio da leggerti di una cantante che è passata da questi, per questi studi, una carissima nostra cara amica, appunto carissima nostra cara amica, che giro di parole, l'interazione. Allora, è Giulia Daici. Un po' la Marzullo, Giulia Daici, è passata di qui? Sì, ancora. Un po' di tempo fa. Grande, lei è veramente una bravissima e carissima ragazza, e amica oltretutto di questa emittente e del sottoscritto, e dice: ciao Ago e Maurizio, sono Karen Ciaccia e stasera vi sto ascoltando perché sono a casa con l'influenza. Mando un saluto a tutti gli amici e ad Alessandro, in bocca al lupo per la tua musica, e un pizzico di invidia con un pensiero di nostalgia per il mio studio radio preferito. Brava, vedi che considerazione che c'è di un radio radio. Peraltro non dico niente, ma probabilmente accadrà qualcosa tra di noi. Eh no, lo voglio sapere. No, c'è un qualcosa che non dico perché non è, diciamo, musicalmente parlando, perché sono altrimenti Giulia. No, anche perché Giulia è Giulia, la mia moglie, quindi. Sì. Ma succederà qualcosa, stiamo a vedere se questo succederà, e quindi ci troverà forse a condividere uno o più palchi. Benissimo. Benissimo. Allora, ciao Giulia. E auguri in bocca al lupo per la tua influenza, insomma, ovviamente. È solo per quello che mi ascolti alla fine. Ritornando un momento al mio codice, nel disco era evidenziato dall'elettrica. Poi ci sono state le tastiere molto fine anni 60, inizio anni 70. Sì. E qua l'hai fatto chiaramente in versione acustica. C'è un ritornello. Attenzione, non è un ritornello perché il ritornello, perché ritorna. E questa è la chiave di volta giusta di questo pezzo. A me è piaciuto particolarmente, l'abbiamo deciso di irradiarlo dalle nostre emittenti, secondo me. Sì, grazie. Hai percepito proprio bene, perché è un ritornello, nel senso che è qualcosa che ritorna, che è un sole complice, questa complicità che col sole che fa in modo di far ritornare a se stessi, diciamo, la giusta misura delle cose e il giusto anche guardarsi, che fondamentalmente è di non guardarsi più e arrendersi alla bellezza, come galleggiare nel mare, insomma. Se tu ti fai come prendere il panico, affondi. Se tu ti fai trasportare dalla potenza del mare, e calmo ovviamente, ovviamente. È come quello di Tutto copre la marea, che però alla fine copre tutto, quindi però tu puoi esistere. C'hai un messaggio che penso ti faccia molto piacere, credo sia il messaggio più bello in assoluto che potevi ricevere. Io te lo leggo così come sta, e dice: vai amore, sentirti è stato fantastico, il pezzo e Tutto copre la marea sono stati da brivido. Giulia, non si è filmata Giulia perché lei gestisce la tua pagina. È Riccardo che gestisce la mia pagina. Vabbè, ma comunque è Giulia. Sì. Giulia ne capisce di musica, questo è evidente. Ok, sulla 22.08.09 io proporrei anche. Sì, lo propongo anch'io. Facciamo un altro live, un altro pezzo dal vivo. Se cosa fai, Ferais? Allora farò un pezzo un po' ancora diverso. Si intitola come l'Eclisse, un inedito. Si intitola L'intuizione. Non, visto il tempo, non so spiegarla. Si spiegherà da sola, dai. Ok. La verità si spoglierà. Dalla sua veste di immunità. Ed in punta di piedi percorre già. La via delle nostre personalità. E dal nulla scriverà messaggi che non ho letto mai. E dal nulla troverà il modo per decifrarlo per noi. E adesso inventare una nuova occasione. Esprimiti ancora fuori dalla ragione. Esprimiti ancora fuori da ogni regione. Tra le pendici della realtà. Le radici della realtà, per poi disegnare una nuova stagione. Col tratto essenziale scorre l'intuizione. E stringiti ancora fuori dalla ragione. Tra le pendici della realtà. Tra le radici della realtà, tra gli imprevisti della realtà. Devi scappare, eh? Devi andare via subito, devi andare a registrare in studio per Castrocaro. È un invito che ti fa. Castrami caro. Bel pezzo questo qua, molto interessante. Interessante anche perché la chitarra la suonavi come un basso, il basso era come fosse un basso. Il basso dava il trend, il percorso di questo pezzo che è assolutamente inedito per noi, è la prima volta che lo sentiamo. Era molto bello, mi è piaciuto particolarmente. E anch'esso sempre che un progetto assolutamente diverso dal cantautorato, dobbiamo ribadirlo questo, progetto tuo che va oltre al cantautorato, questo non è un pezzo da cantautore, è un pezzo un po' visionario, psichedelico possiamo dirlo in alcuni momenti, in alcuni tratti, ora il prog si avvicina, cioè va e viene, c'è qualcosa di prog, sì, ma è un pezzo psichedelico, possiamo dirlo? Sì, acusticamente psichedelico. Assolutamente sì per me. Sì, l'intuizione non, appunto esprime proprio la necessità di questa, di che questa musica sia stata creata in questa maniera, perché per catturare tutto ciò che è invisibile, quello che noi percepiamo come caso, come le coincidenze, le intuizioni, le cose invisibili che ci appaiono, le circostanze che portano a una realizzazione di qualcosa, più ci facciamo caso e più queste cose esisteranno. Nel momento in cui noi ci faremo caso, sarà appunto un caso e basta, mentre l'intuizione è proprio quella di capire che ci stanno arrivando dei messaggi che io non ho letto mai, ma che col mio tratto essenziale scorre nell'intuizione per creare appunto una nuova stagione, inventarsi una nuova stagione attraverso una visione. Sembra tutto una rima baciata, ma non è così. Non è proprio baciata, ma va bene, lascio stare la pornografia. Senti, parliamo un po' di cose, diciamo, tecniche, tra virgolette, dati tuoi, insomma. Dove si può trovare il disco, innanzitutto? Allora, il disco si può trovare. Sarà fisicamente disponibile. Parliamo digitalmente, distribuito da Wondermark, quindi si può trovare su iTunes, su Amazon, Deezer, eccetera, eccetera. Il mio sito, particolarmente, che a cui ci tengo perché comunque mi ha dato l'occasione di andare in America col centro di stanza, di essere chiamato per altre cose riguardanti appunto sempre l'estero, è www.reverbnation.com/ferrais, dove potete ascoltare integralmente ed acquistare, perché vi rimanda al link di acquisto che su iTunes, diciamo, e ovviamente sulla pagina della casa discografica, basta andare su Ferrais, Cancan Music Publishing. E poi a livello fisico, la Cancan Music Publishing, cioè De Gaetano, abbiamo deciso, tutti dicono di essere indipendenti, e pur avendo avuto due proposte di distribuzione abbastanza tra virgolette importanti, anche se poi l'importanza se ti mettono il CD in tutto il mondo, ma nello scaffale penultimo, come l'ultimo del banco che si voleva nascondere, è inutile portare un CD. Il CD deve essere presente, anche perché a livello anche visivo mi ha fatto tra virgolette molti complimenti, non a me ma alle foto di Marco Toninelli, che è un grandissimo fotografo, ha fatto tutte le foto del coso, che in un senso anche un po' visionario, è infatti un fotografo visionario. E quindi abbiamo deciso per una distribuzione fatta dalla Cancan stessa attraverso una distribuzione mirata, cioè ci saranno degli espositori proprio della Cancan con la possibilità di ascolto, come si trova, non so, la Fnac, queste cose. Certo. Quindi tutta, diciamo, intanto iniziamo da Nord Italia, Centro Italia, Nord Italia, poi vediamo, perché dopo sì, ovviamente ci sono arrivate anche delle proposte, però tutto è nostro, cioè vogliamo ragionare in questi termini e vedremo. Se qualcuno volesse invece contattarti, Per contattarmi basta andare su Alessandro Ferrais in Facebook, oppure comunque la mia mail è alessandroferrais@hotmail.it e non com. Sei in Italia, quindi vabbè, però sei. Prossimi concerti, Alessandro? Allora, adesso ho appena avuto questa possibilità di essere ospitato in questo teatro. Abbiamo parlato di concerti con Francesco del Booking qui del Veneto, che comunque oltre al Booking ha il discorso di una trasmissione televisiva, di un magazine, tutto ciò che concerne, quindi è un Booking a 360 gradi e anche un ufficio stampa. E vedremo, intanto io mi sento di fare delle cose molto minime, nel senso degli showcase, tipo come qui, come stasera, anche aprire dei gruppi tranquillo, e a parte lo showcase di Milano, iniziare diciamo qui per tastare il terreno. Poi ci sarà quella cosa che Giulia dai, sa che se parte quella, allora c'è anche un altro discorso domani da fare. Però sempre col sul chi va là, in realtà poi c'è anche la possibilità di andare in tutta Italia e anche all'estero, soltanto che io voglio fare come sta accadendo le cose in maniera molto graduale, perché questo album voglio che prima arrivi la musica, certo, attraverso la promozione eccetera. Perché io quando andavo a vedere i concerti, cioè quando vado a vedere i concerti, prima ho ascoltato l'artista e dopo vado a vedere i concerti. I concerti sono diventati una dimensione promozionale, cioè tu fai il concerto per vendere il tuo disco. Certo. È la verità? È la realtà? Per tutti lo è? Io voglio provare a fare qualcos'altro. Bene. Senti, abbiamo lo spazio, se le fai veloci, di un paio di canzoni. Vuoi ascoltare una dal disco e una dal vivo, o fai tutte e due dal vivo? Come vuoi tu? Ma magari facciamo una dal disco, direi. Io ho scelto la migliore espressione, ti va bene? O volevi qualcos'altro? Dimmi tu, vuoi il mio codice? No, stavo pensando se... Allora, diciamo, mettiamo la migliore espressione, perché l'intersezione, dico, da lunedì sarà passata per tutta la settimana in una trentina di radio FM più altre centinaia di web, quindi dopo sarà un evento che comunque io posterò. Quindi ascoltiamo la migliore espressione, che è stata molto... E poi ci salutiamo con una che è passata in Spagna, peraltro. Ah, bene, ecco, bene. Ok. Okay. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siete? Eccoci qua. Io però non vi sento, non vi sento. Voi non vi sento, C'è qualche problema? Qualche problema di... Non senti? No, no, ma non ti sento neanch'io. È successo? Cosa è successo? Facciamo andare un'altra canzone intanto. Va bene, poi ci torniamo. Io volevo far ascoltare l'intersezione. La memoria di nessuna realtà, la mia bocca non ha sete di alcuna gioia. Quanto tempo ho passato a tremare, perché quanta luce è filtrata per accendere la tua spenta gravità. Nel decidere, la tua calma è il ritratto della nostra vita. Eccoci qua, l'abbiamo sistemato. Chiedo scusa, ma probabilmente è successo qualcosa di strano. Io non ho fatto niente. Imprevisti della realtà. Vabbè, a parte questa burrasca finale, abbiamo proprio finito. Ci sta, ci sta, ci sta. Il bello della diretta. Vabbè, vi chiedo scusa. Allora, Alessandro, ci sentiamo. Sì, sono qualcosa dal vivo. Ci salutiamo qui e ti diamo un appuntamento al prossimo disco. Quando uscirà qualcosa di nuovo, o la prossima intervista sullo stesso o disco, magari meno movimentato. Manca tutto 5-6 canzoni. Abbiamo parlato un po' troppo. Allora, finisco dai con una canzone che è inedita, nel senso che non è pubblicata, ovviamente coperta da Alessia. E comunque si intitola Per alleggerire, anche se il testo è un po', diciamo, il titolo si intitola La morte dell'età, però per fare ancora, diciamo, far vedere qualche altro aspetto della mia musica. La morte dell'età. Ti mando la buonanotte da parte di Enrico. Ciao Enrico, dormi. Hai già capito tutto. Maurizio, ci diamo appuntamento alla settimana prossima, giovedì prossimo, con Gilda Regenzi. Sì, esattamente. 21. Poi ci sarà un appuntamento importante. Salutiamo il nostro direttore artistico che ha curato adesso L'appuntamento che è appena arrivato, lunedì, con Stefano Dainese, e tu in regia. Ah, ecco. Esattamente. Va bene. Fagli dire il nome. Ha detto Alberto che di il nome. Ah, il nome me lo ricordo. Adesso lasciamo lo spazio. Lo troviamo nel sito in ogni caso. Sì. William Knight. Ecco, come... esatto, il nome è arrivato. William Knight, musicista molto bravo, inglese, però abita in Italia da molto tempo a Treviso. Molto, molto interessante. Ore 22? 22 e 30. E 30. Va bene, lunedì quindi vi diamo l'appuntamento. Allora, un grazie ancora di cuore. Grazie da parte a voi, di veramente di cuore. Questa opportunità, questa anormale opportunità, ecco, va bene. No, grazie di essere venuto. Dicevo, ma ti chiedo scusa della questa tempesta. Beh, ma non c'è problema. Le tempeste mi piacciono. Ci salutiamo con la tua ultima canzone. Una buona sera, un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto che continuano appunto con Alberto Prisco. La morte dell'età. La parte mortale di te cancellerò e nel tempio segreto tornerò. Sai che c'è l'eterno che rinchiuso in sé risorgerà attraverso la morte dell'età. Perdiamoci altrove come sommergibili, esplorerai tra gli abissi dell'odio, dell'amor. Lasciati sedurre dai tuoi calcoli e l'inferno sarà nell'attesa di un'altra verità. Prendi tempo, ma per condurci sull'altra metà della tua condizione, che è simile a sparire o forse ad esplodere in frammenti di realtà. O come un vecchio arcobaleno che impazzisce, se ne va e dai suoi colori lui si separerà e una goccia tornerà. L'eterno segreto, riflesso dell'oscurità. Respirerò e nel tempio segreto tornerò.